Molti operai, un capitalista, lavoro sociale medio. Molti operai, un capitalista, lavoro sociale medio. Il capitalismo inizia dal lavoro libero in massa. Il capitalismo inizia dal lavoro libero in massa. Cooperazione, lavoro in comune, forza di massa. Cooperazione, lavoro in comune, forza di massa. Più operai, più resistenza, più pressione del capitale su tale resistenza. Più operai, più resistenza, più pressione del capitale su tale resistenza. Prima sorveglia il capitalista, poi cambiare quanto è dirigente. Prima sorveglia il capitalista, poi cambiare quanto insieme ai dirigenti. Cooperazione, antagonista di artigiano agricoltore, forma specifica della produzione del capitale. Cooperazione, antagonista di artigiano agricoltore, forma specifica della produzione del capitale.